America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We are moving closer to securing the Democratic Party nomination and winning this election in November. The fact is we have to bring our party together. We have to bring it together. Vittorie schiaccianti per Hillary Clinton e per Donald Trump, vittoria schiacciante soprattutto per Hillary in questo mini super martedì. Pensate, la signora ha vinto in Florida, in Illinois, in North Carolina, in Ohio, ha vinto insomma un po' dappertutto, è riuscita ad accumulare grosso modo il 58% dei delegati necessari e dunque si avvia con una certa sicurezza verso la nomination. La stessa cosa si può dire per Trump, pur con qualche incertezza, perché restano un po' di spine. Resta Kasich, che ieri ha vinto l'Ohio. Attenzione, Kasich è il governatore dell'Ohio e dunque sarebbe stato complicato per lui perdere il suo stato. Lo ha perso il suo stato Marco Rubio, il quale a questo punto si è ritirato dalla corsa elettorale. In campo repubblicano ne restano dunque tre in corsa. Kasich, appunto, che può diventare il beniamino del partito, dell'establishment del partito, Cruz e Trump, che in Florida ha accumulato il 46%, ma ha vinto anche in Illinois e in North Carolina con un margine molto buono. Bene, ho con me ai microfoni di America 24 per commentare queste elezioni John Micklethwaite. John è stato il direttore dell'Economist ed è attualmente qui a New York il direttore di Bloomberg News, e dunque ha un polso diretto con queste elezioni, non fosse altro perché sotto di lui ha quasi 3.000 giornalisti. Buongiorno John. Good morning. Dunque, ci sono, John, delle vittorie palesi, Hillary da una parte, Trump dall'altra. Qual è la tua idea guardando in avanti? E soprattutto, è davvero possibile che l'establishment repubblicano possa ancora volersi liberare di Donald Trump? Possibile dopo che si è arrivati a questo punto? It is just possible. È tecnicamente possibile, ma le probabilità che accada sono davvero basse, perché quello che è successo e che sta succedendo è che Trump continua a vincere le primarie. Ne ha vinte circa 20 e c'è un limite alle abilità dell'establishment di fermarlo con questi risultati. L'unica via possibile è che gli altri candidati rimangano in corsa per togliergli i delegati in vista della convention. Ma in ogni caso siamo davanti a un incubo per il Partito Repubblicano. Ecco, c'è un caso però. Poniamo che Trump non riesca a raggiungere il numero di delegati necessari per garantire la nomination, cioè 1237. E io mi domando, è possibile che il Partito Repubblicano possa decidere di fermarlo dopo che questo candidato ha vinto magari 35, magari 38 stati ed è appena un pelo da quel numero minimo di delegati? Insomma, sarebbe un precedente piuttosto complesso. Questa effettivamente è una possibilità, però è difficile che l'establishment la porti fino in fondo. Non è mai successo che un candidato con una vittoria in così tanti stati non fosse poi in grado di ottenere la nomination. Potrebbe accadere, soprattutto perché Trump ha detto delle cose tremende. È vero che magari le persone volevano sentirsele dire, ma il punto è che Trump non è solo come viene descritto in Europa, ovvero contro l'immigrazione, contro gli islamici, eccetera. Ciò che è insolito in Trump, soprattutto dal punto di vista dell'establishment repubblicano, è che è lontano dalle loro visioni su molti punti. Ha una visione prudente su temi come l'aborto, e questo a loro non piace. Non ha una visione positiva per gli accordi per il libero scambio, come invece le ha il partito. Insomma, è distante su molti aspetti fondamentali della loro piattaforma, e loro non sanno come controllarlo. Ecco John, cerchiamo di spiegare, di affrontare una cosa. Perché Trump vince in America? In Italia è una domanda molto frequente che la gente si pone. Come mai in America si vota un personaggio come lui, che non ha esperienza in campo politico, che sembra detestabile sotto molti punti di vista, così atipico come politico? Come si può spiegare il fenomeno Trump? The middle-aged white male who's slightly angry. Sono i bianchi arrabbiati di mezza età, a esprimere il consenso maggiore per Trump. Il punto, rispetto al Partito Repubblicano nelle recenti elezioni, è che la chiave è proprio vincere la maggioranza di questa fascia di elettori, e non le minoranze o le donne. E Trump sta vincendo proprio lì. Questo è il problema del partito. Sta mandando il messaggio perfetto ai suoi elettori. Sta mandando questo messaggio alla maggioranza della base repubblicana e alla maggioranza degli americani che si sentono abbandonati e lasciati indietro per colpa della globalizzazione. Al di là dei numeri, con l'economia americana che sta comunque andando bene, quello che è evidente è un distacco tra la percezione delle élite dei media e il resto della popolazione americana. Bene, in effetti tutti sono stati colti, come dire, di sorpresa da questo fenomeno Trump e tutti continuano a criticarlo, tra l'altro, come dicevi tu, le élite dei media. Però cosa succederà se Trump dovesse davvero vincere queste elezioni? E cosa farà? Si sposterà al centro? Sarà un fenomeno come Ronald Reagan? C'è da fidarsi? Qualcuno ricorda che molti erano contro Reagan quando era candidato. Due cose. Uno, Trump sta portando avanti un programma elettorale molto più estremo di quello di Reagan. Due, su molte cose Trump ha evidentemente torto. Come si può razionalmente pensare che il Messico paghi per un muro ai confini con gli Stati Uniti? O che vengano rinegoziati gli accordi commerciali tra aziende americane e la Cina? Senza considerare molte altre cose che Trump afferma. Personalmente credo che, sebbene sbagli su molte cose, forse ha ragione su due punti. Primo, è effettivamente possibile che sia lui a vincere le elezioni perché Hillary Clinton non ha necessariamente la popolarità giusta secondo molti elettori. E secondo, Trump è visto come un uomo d'affari, capace di portare a casa accordi di ogni tipo per la sua abilità nel negoziare. Esatto, John. Sì, hai assolutamente ragione, perché la sensazione è che nel momento in cui si parte con un negoziato si parte sempre da posizioni estreme e dunque forse Trump parte dall'estremismo per conquistare certi voti per poi, una volta diventato presidente, magari moderare i suoi toni o le sue visioni. Questa visione rispecchia anche l'atteggiamento di molte persone. Ad esempio, i ricchi uomini d'affari che vivono nell'Upper East Side hanno inizialmente commentato la candidatura di Trump dicendo: chi è questo? Cos'è, uno scherzo? Per poi dire: beh, sta effettivamente facendo meglio di ciò che ci aspettavamo. Per arrivare ad oggi, dove molte persone dicono: probabilmente è meglio di Cruz. C'è però un punto da non sottovalutare, soprattutto alla fine della campagna elettorale. Quando si fanno promesse agli elettori, in modo pubblico, come sta facendo Trump, è molto difficile ritrattare, soprattutto perché non sembra affatto un uomo a disagio con ciò che dice. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.